Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ci compreremo una 1300 per andare nel vento verso un sogno d'amore. Ci compreremo una 1300. Buongiorno. Lo sapevate che nel 2025 un'auto su 10 sarà senza pilota? Non solo, per allora il mercato delle connected car, cioè delle auto interconnesse fra di loro con la rete internet e con tanti altri elementi quali la strada, i lampioni, i semafori, la città, potrebbe valere 100 miliardi di dollari. Mary Barra, la signora che è CEO di General Motors, ha detto di recente che l'auto cambierà di più nei prossimi 10 anni di quanto non sia cambiata negli ultimi 50. Tutto questo ha effetti profondissimi sulla nostra società, sul modo in cui sono organizzate le fabbriche e sulla nostra cultura. Prendiamo l'Italia, la produzione di auto vale 30 miliardi, ma la produzione di componenti ne vale 40 miliardi. E soprattutto parlare di auto significa parlare di come sono organizzati i nostri rapporti sociali e di come è organizzata la nostra cultura, di come viviamo, lavoriamo e ci manteniamo tutti noi. Comunque, i tempi della 1300 di Domenico Modugno, che avete sentito in apertura, sono ormai finiti. Siamo nell'era del CASE, l'auto Connected, Autonomous, Shared, Electrified. CASE è un acronimo coniato dalla società di consulenza strategica Alice Partners. Ripeto, vuol dire auto connessa, autonoma, condivisa ed elettrica, e oggi parliamo di come cambia la fabbrica di auto, di come cambia il mondo dell'auto con Stefano Aversa, che è uno dei vice president di Alice Partners e soprattutto da anni è noto per essere un consulente internazionale di grande prestigio nel mondo dell'automotive. Aversa è una persona che parla a livello di pari con Marchionne piuttosto che con Mary Barra, e lo abbiamo ospite qui. Buongiorno. Buongiorno e grazie per i fiori. Senta, che cosa significa allora che l'auto cambierà così tanto? E che cosa comporta per le fabbriche? Ci sono sicuramente dei cambiamenti che cominciano dal mercato stesso dei consumatori e che poi si riflettono e vengono a sua volta stimolati dai cambiamenti tecnologici. Quindi se parliamo di consumatori, prima di tutto, chi compra oggi l'auto, chi si affaccia oggi al mercato dell'auto sono i cosiddetti millennials, quindi quelli per intenderci che sono nati negli anni 90. Di questi solo il 15% oggi ritiene la macchina estremamente importante. Io che sono un cinquantenne inoltrato, a 18 anni, 6 mesi e un giorno avevo il mio foglio rosa. Oggi l'età in cui si prende la macchina, in particolare nella patente, in particolare negli Stati Uniti, è già allungata di 3 anni rispetto a 10 anni fa. Quindi, ma lo vedo anch'io qui in Italia, ormai i ragazzi, vedo anche quelli giovani che ci sono alla radio, gliene importa ben poco della macchina e si muovono con l'auto condivisa quando prendono la patente, molti non ce l'hanno, oppure vanno tranquillamente in metropolitana, in treno, a piedi. Esatto, addirittura una di queste ricerche fatte in America, ma di nuovo questi sono trend mondiali, mostra che i millennials, il 30% di questi millennials non intende comprare una vettura a breve né nel lungo termine. Ciò nonostante, la produzione e la vendita di auto in tutto il mondo cresce. Voi stessi di Alice Partners avete stimato che nel 2021 arriveremo a 103,2 milioni, che è quasi il 70% in più rispetto ai 69,7 milioni del 2007, e l'auto cresce anche nel mondo occidentale e anche in quegli Stati Uniti che lei ha appena nominato, visto che nel 2017 ci sarà un picco di 17,7 milioni di auto vendute negli USA. Come mai i millennials non le vogliono più, però se ne vendono di più? Beh, intanto diciamo i millennials sono un segmento importante, in particolare stanno diventando un segmento importante negli Stati Uniti, ma non sono ancora il segmento principale. Poi ripeto, il 30% non intende comprare la vettura, ma il 70% non intende comprare. E poi abbiamo i paesi emergenti in cui la penetrazione dell'auto è ancora un decimo della penetrazione che abbiamo in Europa. In Italia, fra l'altro, è uno dei record in termini di numero di vetture per 1000 abitanti, siamo superiore ai 500. Quindi c'è ancora un grandissimo spazio di crescita, ma questa crescita sarà una crescita anche in Cina, per la prima volta quest'anno è una crescita a una cifra, non a due cifre, quindi una crescita più moderata, ma ancora crescita prevista per comunque ancora qualche cambia anno. Totalmente il paradigma, soprattutto di quelle quattro lettere che voi avete messo per l'auto, case, connected, autonomous, shared and electrified, quello che rileva è che sia connessa. Io ho provato a mettere giù con chi le auto comunicheranno fra poco. Le auto comunicheranno l'una con l'altra, con le strade che percorrono, con gli edifici che costeggiano, con i pali della luce, e poi comunicheranno con i semafori finché ci saranno i semafori, con i produttori dei vari pezzi che compongono l'auto stesso che andrà in giro, con il produttore finale, cioè l'auto continua a parlare con la sua casa madre, con le assicurazioni e con i satelliti. Un casino. Beh, lei ha già detto tutto. L'auto è, diciamo, subito dopo la casa dove viviamo, il posto dove passiamo più tempo, qualche volta purtroppo per il traffico, e quindi è importante rendere questo tempo piacevole con i vari entertainment system, ma anche utile, quindi se è possibile connettersi, lavorare, sicura in caso di incidente o in caso di panne, per poter chiamare automaticamente o in maniera facile soccorsi, eccetera, eccetera. Ecco, la devo interrompere perché abbiamo gli avvisi sul traffico, visto che si parla di auto, e la pubblicità. Ricolleghiamo con lei fra un minuto esatto. Fabbrica 2.4. Ci compreremo una 1300 per andare nel vento. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Stefano Aversa di Alix Partners, che è uno dei massimi esperti al mondo di automotive e dei relativi scenari futuri, di come sarà l'auto nel 2025 e poi nel 2050 e di come questo cambierà il modo di produrle e quindi la fabbrica che è il tema della nostra trasmissione. Allora, dicevamo Aversa, l'auto sarà interconnessa un po' a tutto. Sì, sarà connessa al mondo esterno, alla macchina stessa, ai produttori che dovranno farne la manutenzione, ai sistemi di sicurezza e di navigazione che ci aiuteranno a orientarci in un mondo che sarà sempre più complicato. E poi probabilmente sarà anche elettrica. E poi sarà sicuramente più elettrica, ci sono degli obiettivi molto ambiziosi. Per la Germania c'era un obiettivo governativo di arrivare al 2020 a 1 milione di vetture circolanti elettriche, in Cina addirittura nel 2020 a 5 milioni vendute, quindi a circa il 25%. Questi obiettivi, come molti obiettivi nel caso dell'auto elettrica, non saranno raggiunti, sono obiettivi irraggiungibili, ormai possiamo dirlo, ma il trend è sicuramente di crescita, in particolare delle auto elettriche, diciamo a batteria, non le cosiddette ibride, quindi che hanno anche un motore. Ma questo come mai? Solo per la storia delle emissioni, perché poi la questione del reale impatto ambientale è discutibile, perché comunque per produrre l'energia elettrica bisogna usare il petrolio e il carbone. Sì, l'impatto è sicuramente inferiore, quando si dice a zero impatto si dice ovviamente una cosa sbagliata, non solo inesatta, l'impatto c'è perché l'energia va comunque prodotta, specialmente se viene prodotta da carbone o da centrali inquinanti, l'inquinamento c'è e come. Rimane il fatto che il motore elettrico è molto più efficiente dal punto di vista termodinamico, quindi se facciamo il bilancio energetico totale l'auto elettrica è più efficiente. I problemi sono di altro tipo, i problemi sono di costo ancora molto elevato. Per essere un attimo tecnico, oggi una Tesla costa circa $270 a kilowattora, fino a che non si raggiunge un $100 a kilowattora, che è un obiettivo raggiungibile ma nel medio termine, quindi forse fra 10 anni, non sarà competitivo con i normali motori a combustione interna. Questo vuol dire che servono incentivi nel breve, che sono richiesti proprio ieri in Germania, c'è stata una richiesta di 2 miliardi di euro di incentivi che ovviamente il ministro Schäuble ha prontamente detto che non è disposto a dare. c'è bisogno anche di evoluzioni tecnologiche il più rapide possibili per raggiungere costi e anche autonomia, perché l'altro importante deterrente è il fatto che oggi le auto hanno un'autonomia comunque intorno ai 100 km, possono arrivare le migliori oggi intorno ai 200 e diciamo viene ritenuto circa i 300 km un valore in cui l'ansia del guidatore comincia a diminuire. Ecco, ma forse uno dei motivi per cui i governi sostengono l'auto elettrica è che questo dà modo di rinnovare il parco di auto e anche di rinnovare le fabbriche, e siccome l'auto è un volano di occupazione, di innovazione tecnologica, di ricerca scientifica, con questa scusa, tra virgolette, si rinnova un po' tutto e si rimette in moto il mercato al di là dell'ambiente. Ma non so se questo è il principale motivo. Certamente l'auto elettrica, che oggi ricordo è meno dell'1% delle vendite, ha superato giusto a dicembre in America l'1% delle vendite. È un'auto che si produce dal punto di vista, diciamo, della carrozzeria in maniera molto simile all'attuale, anche se stiamo parlando dell'auto, diciamo, di massa, mentre il motore è fondamentalmente diverso. È un motore elettrico prodotto in maniera molto diversa, quindi... Ecco, però dal punto di vista della fabbrica, avere da un lato le auto interconnesse in modo così spinto e poi le auto elettriche che si affermeranno di più e forse anche le auto autonome, che però sono un sottocapitolo dell'auto interconnessa, dal punto di vista della fabbrica e della manifattura, questo che cosa cambia? Ma cambia, prima di tutto cambia che l'auto è molto più complessa, con un contenuto di elettronica molto superiore. Già oggi la parte elettrica ed elettronica vale di più del contenuto meccanico. Questo vuol dire che l'auto diventerà molto più modulare, con una quantità di elettronica enorme, mentre la parte più meccanica, in particolare del powertrain, del propulsore, andrà a ridursi fino a scomparire per quanto riguarda l'auto elettrica. Però ricordiamoci che stiamo parlando oggi di auto elettriche soprattutto nei segmenti di alta gamma. Quando si parla di Tesla stiamo parlando di una vettura che costa $100,000 e più. Invece l'auto interconnessa, il che vuole anche dire che sono interconnessi prima della fabbricazione i vari componenti, che cosa comporta dal punto di vista della fabbrica? La fabbrica ha un'influenza simile, nel senso che l'auto interconnessa è un'auto fortemente cablata, ad alto contenuto di elettronica, quindi avremo dei fornitori, non tanto i produttori di auto, ma fornitori di componenti elettronici che faranno una parte ancora più importante dell'auto, quindi forniranno dei moduli elettronici che saranno poi plugged in, saranno inseriti e connessi nell'auto solo al momento dell'assemblaggio, potranno essere anche cambiati. Cambierà anche, come già oggi è il caso, il fatto che tutta una serie di aggiornamenti che oggi richiedono di andare dal meccanico, dal concessionario, potranno essere fatti via etere, come è successo molto recentemente. E soprattutto nella fabbrica però ci saranno molti meno operai. Non necessariamente, perché comunque la parte elettronica richiede una forte ancora manualità per essere assemblata. Ci dovranno essere tanti test, e questi test sicuramente vengono fatti in maniera automatica, ma rimane la parte, diciamo, dello chassis, della scocca, che comunque va assemblata, della parte del... Ma del... lo fanno i robot questo? Mica c'è bisogno che lo facciano gli uomini? No, l'assemblaggio è ancora fortemente... Mentre i robot, diciamo, si occupano della saldatura, oggi questo è fortemente automatizzato, e anche la verniciatura, per la parte di assemblaggio è ancora assolutamente sconveniente fare il montaggio con robot. I robot assistono. Beh, però fra 5-10 anni. Non credo, credo che ancora sarà. Ah, questa sarà è una novità. Avere manualità. Su questo non credo di essere un contrario, ma mi accorgo che si fa informazione futurista ma poco aderente alla realtà. Ecco, invece le fabbriche, scusi se la incalzo un po', ma abbiamo poco tempo che ci resta. Le fabbriche come cambieranno? Saranno sempre più grandi, sempre più concentrate? Il fatto che anche i produttori con le piattaforme più grandi siano quelli che hanno i margini migliori non comporterà che si tenderà di più a fare magari mega impianti? C'è una tendenza, diciamo, a una concentrazione che c'è stata negli anni, ma oggi gli impianti tendono a essere dell'ordine dei 200-250 mila vetture per impianto. Ci si rende conto che quando si va molto sopra questi valori si hanno più dissinergie di scala che sinergie di scala. Ma quindi alla fine l'auto cambierà molto, e questo lo sappiamo tutti, addirittura si parla dell'auto che si guida da sola e della prima auto costruita da una stampante 3D, però alla fine la fabbrica di auto non cambierà moltissimo. Ci stai dando una notizia? Sì, no, non mi aspetto che cambierà in maniera, diciamo, cambierà molto all'interno su come lavorerà, perché avrà un controlli elettronici sempre più precisi, sempre più, diciamo, online, ma per chi entrerà probabilmente fra 10 o 15 anni in una fabbrica di auto rispetto ad oggi non la troverà, per un occhio non esperto, così diversa da quella che è oggi. E senta, e invece l'auto che si pilota da sola quando arriverà e come cambierà tutta la filiera? L'auto che si guida da sola, l'auto autonoma, è un trend che sarà un'evoluzione, non una rivoluzione. Nel senso che ci sono una serie di caratteristiche che aiutano il guidatore, il controllo della distanza dalla linea di carreggiata piuttosto che la distanza dal guidatore precedente, che già oggi sono disponibili e sono funzionanti e anche affidabili. Mi aspetto che l'auto autonoma sarà autonoma in corsie privilegiate, mi aspetto che cominceremo dai mezzi commerciali, che sono quelli che hanno il maggior vantaggio, e si estenderà su percorsi, in particolare le autostrade, su corsie privilegiate molto presto. Questo è uno scenario in cui potremo vedere i primi casi già fra 5 anni, mentre l'auto che sia autonoma in ogni condizione di tempo e di diciamo esterne, in particolare nelle aree urbane, ci vorranno molti anni, forse non riuscirò io a vederlo nel resto della mia vita. Va bene, io continuerei a parlare con lei per ore, però il tempo è tiranno, mi auguro di averla ospite anche in una delle prossime trasmissioni. Intanto grazie e arrivederci, dottor Aversa. Grazie a voi.